10:56 di questo martedì 7 luglio prosegue la mattinata informativa di Radio Blackout e come ogni martedì mattina torna in onda l'appuntamento con Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. Allora, un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Al momento Francesca qui in studio a tenervi compagnia fino alle 12:45, ma Eddie è in arrivo per ripristinare il consueto duo del martedì mattina. Vi preannuncio che la temperatura qui nello studio di Via Cecchia ha superato i 34 gradi, quindi se doveste sentirci delirare o sentite sparire la trasmissione perché abbiamo ceduto sotto il peso del caldo. E come sempre vi ricordo anche i contatti per scrivere nel corso della trasmissione, il numero del telefono fisso per chiamare 011-249-5669, mentre per gli sms potete scrivere al 346-667-3263. E allora io su questo vi lascio ancora un pezzo musicale e ci risentiamo tra pochissimo per la presentazione della puntata. Scoping a trap to haul out a fight for small round night. Catch a high dog camp from the fly bullpen. Ding everybody by backseat. Fact sheets, everybody's giving on the backseat. Same routine, nobody's on your team. Then suddenly you butter and they wanna catch a dream. Previously all in a venture. Crawl from the cracks cause you're selling out a limp here. Please, strictly cool to the death. And a few that spread true love and effect. I-O-N and the lie O ends then. Say your brothers and you ain't coming in. Mumbling something in my head about two. We should roll together. Fair weather, it's breaking news. Liars all your best. Extra, see through the texture, peek when the vectors align like a star sign. See what you find in the constellations, aware that we're merely oscillating. Molecules in solitude, contemplating about our food, fuel, and our social status. Lay the rooters out, bring the loot around for the coup de grace. With the sound, the villain is killing, are you big enough for drinks we share? From the mouth, I'm the endless round, for the gold glitter ain't shit, evidently friend. So what you think we have is an illusion, we ain't never pinky swear to when booze in, never skip through the land. Hand in hand, the attitude is fast, I kept brooding. It's breaking news. Liars all your best liars. Thank you. 11.02 sui 105.250. Ciao a tutti e tutte da Eddie, che è riuscita a giungere alle vostre orecchie e ai nostri liberi microfoni. E allora, come sempre, andiamo a presentarvi la puntata di quest'oggi. Ovviamente i microfoni rimarranno aperti per eventuali aggiornamenti dall'occupazione di Via Bardonecchia, che da questa mattina è sotto sgombero. Poco fa avete sentito l'ultima diretta dall'info, alcune compagne sono ancora sul tetto, mentre altri sono già stati fatti uscire dopo essere stati identificati e denunciati a piede libero, quindi insomma rimarremo sintonizzati con i compagni che si trovano in presidio all'esterno della palazzina per sapere un po' come prosegue la mattinata. Ricordiamo, tra parentesi, che la proprietà dell'ex scuola di formazione della Cassa Depositi e Prestiti, uno degli organi che sta diventando anche rilevante da un punto di vista di azioni nei confronti delle città. Sappiamo perfettamente che con determinate destinazioni d'uso dalla Cassa Depositi e Prestiti si sbloccano fondi stabili immobili, altrimenti sarebbero bloccati. Per esempio le residenze universitarie sbloccano, la destinazione d'uso formativa sblocca parecchi fondi, e allora vediamo come ancora una volta il Comune di Torino e insieme a tutte le istituzioni e tutti gli strumenti di cui si è dotata lo Stato in questi anni per garantire per garantire una condotta predatoria nei confronti delle persone che abitano le città e delle città stesse, bene, invece di dare una soluzione agli sfrattati, si restituisce alla Cassa Depositi e Prestiti quel che gli spetta, a quanto pare. E poi proseguiremo con qualche aggiornamento sempre dal locale, però più dal punto di vista universitario, in particolare per quanto riguarda la paventata riforma della buona università, di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane, ma che negli ultimi giorni è uscita un po' allo scoperto anche sui media mainstream con alcune dichiarazioni del governo, quindi andremo ad aggiornarci un po' sulla situazione. E sempre per quanto riguarda l'università, sempre per quanto riguarda Torino, andremo a presentare Crack Unito, l'iniziativa dei Campus Invaders che avevamo annunciato nella scorsa puntata ma che per motivi di tempo non eravamo riusciti a presentare. Andremo appunto a farci un po' raccontare sia la giornata nei fatti, quindi quali saranno le attività che si susseguiranno dalla mattina alla sera, il palinsesto è abbastanza ricco, ma anche il senso e la voglia che ha animato questo gruppo di persone a costruire momenti e spazi di socialità diverse in università. E per chiudere daremo spazio al ormai consueto appuntamento con i racconti di Valderrama, racconti a tema letterario calcistico che vi abbiamo già fatto ascoltare nelle ultime due settimane. Quest'oggi lasceremo appunto spazio a una nuova puntata, per così dire. E questo è più o meno quanto, sono le 11.05, quindi vi lasciamo a un po' di musica, poi iniziamo con gli approfondimenti. Buon ascolto. Si sente, Funk Shui, più brigante, Don Goku. Tira strappo funi, funky shui più i crudi, le tue orecchie sturi, drammi e pianti e escludi, balli il funk e il boogie, senti jazz e rap, flow su break, non su bread, mute sound fresh, underground no trash, senza pound no cash, qui si rischia il crash, decidi entra o esci, attori recitivi, autori decisivi, amore al primo flash, lasciati prendere dal groove, and feel so good, cosa così non giù ne tocca, non puoi azzittire questa bocca, non puoi fermare la mia tribù, ci puoi trovare da nord a sud e sembra assurdo, ma prendo spunto dalla natura intorno e non da un idolo di turno, e guardo il nuovo giorno, un paesaggio notturno, da sveglio sogno e ogni volta ci ritorno, mi ricordo, bastano due parole, coi tempi che corrono, due parole, al caldo si accordano, due parole, tra denti e gole, sulle strade del sole, bastano due parole, coi tempi che corrono, due parole, al caldo si accordano, due parole, tra denti e gole, sulle strade del sole.

show, it has to be accepted that what? The life is hectic. Undici e 12, siete sempre all'ascolto di Parole e Ribelli. Prima di iniziare vi leggiamo un sms che è appena arrivato qui al 346-667-3263 da parte dei nostri sempre attenti ascoltatori e ascoltatrici, che ci segnalano cisti controllori GTT con vigile alla fermata del 4 prima del capolinea a Mirafiori, quindi se siete nei dintorni fate occhio. E allora, come dicevamo poco fa, iniziamo con un po' di rassegna stampa, proseguiamo il discorso sulla riforma della buona università, questo insieme di iniziative da parte del governo Renzi che dovrebbe seguire quello della buona scuola, che ha fatto particolarmente discutere in questi ultimi mesi. E, da sottolineare, insomma, in prima battuta come questa riforma della buona università in realtà si ponga esattamente a metà strada tra una riforma degli atenei e una riforma del lavoro, e quindi vada letta complessivamente, come abbiamo già detto, insieme al sia alla buona scuola che al Jobs Act, quindi guardando appunto complessivamente a tutti gli interventi del governo Renzi in questi mesi. Finora appunto il discorso sulla buona università era rimasto abbastanza in sordina, e quel che era dato sapere era, insomma, poche righe trapelate da vari siti e documenti governativi, che però di ufficiale avevano ancora poco, se non appunto il fatto che rettori e governo si sono incontrati alcuni mesi fa a Roma per stabilire delle linee guida. Nei giorni scorsi invece qualcosa è trapelato, e il governo è stato in un certo senso anche un po' costretto a esporsi sulla vicenda, più che altro per, insomma, il gioco mediatico, per cui rincorrere alla notizia obbliga appunto un po' i ministri a venire fuori. Quindi ci sono state alcune dichiarazioni in merito alla riforma della pubblica amministrazione, che appunto riguarda in prima persona i nostri atenei. E quindi appunto, dopo aver quasi portato a casa almeno un pezzo della riforma sull'istruzione delle scuole medie e superiori, il governo Renzi prosegue per quanto riguarda l'università, e anche in questo senso è da rilevare come appunto il fatto che i riflettori fossero puntati sulla buona scuola e sulle mobilitazioni giustissime che vi si sono opposte in queste ultime settimane abbia un po' spostato i riflettori da quello che accadeva invece rispetto agli atenei. Il programma, appunto, sebbene se ne sia parlato poco, sembra abbastanza limpido, e le intenzioni del governo sono assolutamente chiare, e gli interventi che si affacciano sugli atenei sono principalmente due. Il primo, che è stato quello più contestato, è quello che riguarda la provenienza territoriale dei neolaureati italiani, che appunto verranno differenziati in maniera gerarchica a seconda di dove si sono laureati, e in questo senso verrà creata quindi ancor di più una distinzione tra atenei di serie A e di serie B, che già ovviamente esiste ed è chiara a tutti, ma in questo caso verrà messa proprio nero su bianco, e questo comporterà anche delle differenziazioni in termini di finanziamenti che arriveranno agli atenei, e che appunto verranno in un certo senso schedati sulla serie di un lungo elenco di parametri, che determinerà chi può eccellere, chi può puntare ad avere qualche briciola di finanziamento, e chi invece verrà declassato appunto ad ateneo di serie B, una sorta di parcheggio dove mettere tutti quelli che non si possono permettere di accedere alle università migliori, che potranno ambire a un titolo di studio che null'altro varrà se non appunto un pezzo di carta dal valore praticamente nullo. In questo senso viene quindi meno quello che era uno delle poche certezze rimaste sulle macerie dell'università pubblica, e quindi il valore legale parificato dei titoli di studio che creeranno appunto questo tipo di distinzioni. E non è difficile immaginare che questo avrà ovviamente anche delle ripercussioni sui costi di accesso delle varie università, con appunto gli atenei privilegiati che innalzeranno ovviamente le soglie di ingresso e quindi le tasse universitarie, e gli altri che invece si manterranno su soglie comunque alte e costose, perché questa è la realtà, ma probabilmente più accessibili. E appunto non è un caso che provvedimenti di questo tipo si affacciassero all'orizzonte anche per quanto riguarda l'università di Torino, dove poi il provvedimento è stato per ora bloccato, ma nulla garantisce insomma che qualcosa di simile non possa accadere nei prossimi mesi. Il secondo grosso provvedimento, che è strettamente legato a quello di cui abbiamo parlato adesso, della distinzione territoriale, è una riforma del sistema di valutazione del voto della laurea, ovvero non sarà più solo il voto finale appunto di laurea a contare, ma questo voto verrà calcolato nel suo valore in relazione a quella che è la media dell'ateneo. Quindi se uno prende ad esempio 110 lode in un'università in cui tutti prendono 110 lode, il suo voto, per quanto alto, varrà praticamente niente. Questo cosa comporterà? Ovviamente accelererà tutti quei processi di meritocrazia e soprattutto di rincorsa appunto al voto più alto, che mette gli studenti uno contro l'altro in appunto questo tentativo di cane mangia cane, che cercherà appunto di modificare ulteriormente la soggettività universitaria, creando appunto delle persone che sgomitano, innanzitutto per finire prima possibile, in secondo luogo per avere una media altissima, il che mette ovviamente una fetta ulteriore di potere enorme nelle mani dei baroni e dei docenti universitari, che in questo senso si faranno un po' portatori di quello che sarà il destino dei vari studenti. Quindi questo è un po' il quadro che si profila all'orizzonte. Questi sono i due grandi provvedimenti che per ora sembrano essere chiari. Ovviamente è probabile che ci saranno anche altri aspetti di questa riforma che verranno fuori man mano. Chiaramente il compito da qui all'autunno sarà quello di portare a galla appunto questi provvedimenti e mobilitarsi fin da subito perché non diventino realtà. Questo discorso appunto l'avevamo già portato avanti da alcune settimane, adesso c'è qualche informazione in più. Durante l'estate ci saranno sicuramente anche delle assemblee, dei momenti di confronto per iniziare a preparare la mobilitazione, quindi l'invito appunto a rimanere sintonizzati anche da questo punto di vista. Come mio compagno, la polvere si alza, ma non è la sola, un intero protone con

uccido per primo, tremando e tengo vivo quel che vedo quando mi esprimo, mentre un altro astro nascente si sente già un pilastro portante in alabastro splendente. Vedi più importante porre il proprio nome sull'Atlante. Guerra fra clou finisce come mue Atlantide, civiltà evolute che non si sono capito volute, adesso sono perdute anche revenute. Io non discuto con chi non discute, mastico il più giovane alla tua salute. Tutto è un sync con il pugno e il microfono armata. DJ con le dita sui dischi, lotta armata. Non c'è rider che non tocca gli spray, lotta armata. Non c'è b-boy senza mani sul cazzo, lotta armata. È un sync con il pugno e il microfono, lotta armata. DJ con le dita sui dischi, lotta armata. Non c'è rider che non tocca gli spray, lotta armata. Non c'è b-boy senza mani sul cazzo, lotta armata. Non puoi fregarmi, per fare i tuoi risparmi. Se vogliono la guerra, guerra, guerra, guerra, sì. Non obbligarmi a .11:28 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta i contatti: 011-2495-669 per chiamarci e il 346-6673-263 per scriverci e per il servizio CISTI, viaggiare informati. Per chi si fosse appena messo all'ascolto, siete in compagnia di Parole Ribelli, che andrà avanti fino alle 12:45 e che in questo momento è a sua volta in compagnia di Gilberto. Gilberto, ci senti? Sì, vi sento, ciao. Bene, allora, come dicevamo in apertura di puntata, andiamo a presentare Crack Unito, evento della, diciamo, a cura dei Campus Invaders. Esattamente. Una presenza che seguiamo da un po' nel Campus Luigi Einaudi, questi piccoli alieni, diciamo, che nell'astronave Campus cercano di creare spazi che siano poi più a misura di chi effettivamente il campus lo vive tutti i giorni e non di chi, diciamo, ha in testa un'idea di università che, per quanto luccicante, poi lascia poco spazio alle esigenze di chi A la paga, B la vive. E allora, Gilberto, se ci racconti un po', appunto, sia, diciamo, il palinsesto di questa giornata, che è molto ricca, andrà avanti dalla mattina alla sera, e poi anche un po' l'esigenza di, appunto, della giornata stessa, e quindi di crearsi un momento come quello che ci vai a presentare. Sì, certo. Allora, come dicevi tu, l'esigenza è quella di cercare di vivere degli spazi in modo diverso, anche cercare di renderli più vivibili per noi studenti e anche più fruibili, per evitare di usare il campus come se fosse solo un luogo di passaggio in cui facciamo quello che siamo spinti a fare. L'idea della giornata è proprio di poter sovvertire un attimo quello che è l'uso degli spazi, e per questo noi abbiamo pensato a varie attività di vario tipo. Infatti cominceremo la mattina alle 10 con una dimostrazione di Tai Chi e Kung Fu, durante la quale Campus Invaders preparerà una colazione estiva per chi volesse partecipare, ma anche per tutti quelli che passano. Dopodiché avremo altre attività nel pomeriggio, che invece sono un attimo più, se vogliamo, critiche nei confronti del discorso di prima, per cui avremo una performance in giro per il campus, con cui attraverso i nostri corpi cercheremo di cambiare lo spazio, cioè usare il corpo per dare anche un segno, far vedere alla gente che gli spazi basta poco per interpretarli in un altro modo. Dopodiché proveremo a farci due domande su qual è il futuro dell'università verso le 6, con chiamiamola una discussione su quella che è la bozza appena uscita della riforma sulla buona università, e per poi invece passare a parlare di spazi virtuali, che è un altro tipo di spazi, ma ai quali l'università ci fornisce delle prove, dandoci anche solo un wifi e un account Google. E quindi parleremo di quelli che sono i rischi o i benefici che se ne possono trarre. Alla fine ci piace chiudere come sempre con un po' di musica, avremo Spinoza e poi faremo un po' di festa, alla fine una bella festa universitaria. Beh, direi che il programma è davvero, cioè, è piuttosto ricco, perché appunto la giornata è articolata e i momenti che vede sono anche molto differenziati. C'è un qualcosa su cui in particolare volevi, diciamo, cioè di tuo, non su cui volevi concentrarti, che volevi spiegare un po' meglio rispetto a... Ma guarda. Vai, vai. Allora, io in particolare tengo molto a quello che sarà poi l'interrogarsi su che fine farà l'università, soprattutto il campus che raccoglie prevalentemente materie umanistiche. Da quello che è uscito da questi primi punti di una possibile riforma, ci saranno alcuni rivoluzionamenti, grandi, grossi, non si sa. Quello che secondo me è importante per noi, interrogandoci su quella che è la nostra realtà di Torino, è cercare anche di allargare un attimo l'orizzonte e capire cosa potrebbe succedere, anche perché Torino è sempre stato un po' il laboratorio campus dell'università italiana, e quindi cercare di vedere un attimo insieme con tutti quelli che hanno voglia quale potrebbe essere il futuro dell'università. Ma infatti mi riaggancio a quello che dicevi e ti volevo, diciamo, la domanda che ti volevo fare era anche un po' di spiegarci questo nome, Crac Unito, che sicuramente un po' appunto va al cuore della questione anche che dicevi tu, ma sappiamo che appunto non è solo pittoresco, non è solo perché suona bene, insomma. No, esattamente. Crac Unito nasce un po' perché forse c'è bisogno di fare una crepa in quella che è l'immagine e l'uso forzato che si ha di uno spazio, e delle crepe si possono, come dei buchi delle serrature, si possono vedere cose che in altri modi magari non si vedono. Dopodiché si rifà anche a una serie di iniziative che erano quelle di Accunito, con le quali poi non sempre ci si è trovati d'accordo, che poi erano anche un po' il primo punto per provare a fare un'università diversa a Cunite, quindi il rimando di Crac Unito è quello di spezzare un attimo la visione comune e riflettere appunto su quello che si può fare e si deve fare con gli spazi in cui viviamo, soprattutto l'università. Sì, poi la domanda che mi viene anche da porre, non a te, ma da rigirarci anche, diciamo, come studenti, comune a chi? Perché poi io credo che la visione comune, che cioè quella che viene venduta come visione comune, poi di fatto molto spesso tale non è, è semplicemente la visione della controparte che cerca di disegnare e significare lo spazio in cui siamo e il dispositivo, diciamo, che o l'istituzione entro cui si agisce, in questo caso quella formativa, per, diciamo, rendere inimmaginabile una qualunque alternativa, una qualunque forma di andamento diverso da quello imposto. E quindi sicuramente appunto credo che anche voi, diciamo, come Invaders, anche rispetto a il passaggio che c'è in C1, che appunto è uno spazio concreto tutt'altro che virtuale, siate in grado di sondare anche che forse non è poi questa, non è poi la percezione degli studenti effettiva quella, esatto, di un'università efficiente. Sì, Campus Invaders nasce proprio con questa necessità di creare uno spazio degli studenti, per gli studenti, dove forse, in buona fede, vogliamo provarci, non è stato concepito poi in questo modo, perché il campus è sì questa macchina quasi futuristica, però ha delle criticità che Campus Invaders dall'inizio ha voluto portare avanti, e la giornata è un altro passo per portarlo anche all'attenzione di chi magari viene per l'esame, se ne va e non ci fa neanche molto caso a quello che potrebbe essere un uso alternativo di uno spazio. È un uso poi forse anche più funzionale anche a scopi che non siano quelli, diciamo, di chi l'università poi la vede come un grande salvadanaio in cui in fila dobbiamo andare a mettere più soldi possibili, perché... Campus Invaders cerca di coniugare un po' quelle che sono le esigenze. Noi diamo un'aula studio, diamo un posto per mangiare, cosa che al campus manca, cerchiamo nel nostro piccolo di fare eventi culturali, perché no, nel frattempo anche magari dare modo a tutti di divertirsi un attimo. Bene, allora Gilberto, grazie mille di essere stato così esauriente, esaustivo. Noi ci facciamo, diciamo, eco dalle libere frequenze di Radio Blackout a tutti e tutte coloro che volessero partecipare l'8 luglio 2015, diciamo presso appunto il campus Luigi Einaudi, nello specifico nei dintorni dell'auletta C1 occupata. La giornata è varia, ce n'è per tutti i gusti, per tutti gli orari, e quindi diciamo invitiamo tutti e tutte l'8 luglio 2015 a partire dalle 10 fino alle ore 22 con l'inizio del concerto. Servizio fotocopie, scambio libri, dibattiti, eventi, insomma ce n'è, appunto, ce n'è per tutti e tutte. Sì. Gilberto, grazie mille. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao anche a voi, grazie. Dei PS 113 Fab, Yo Ice, Crash Kid, sempre qui, solo amore, solo hardcore, la mia vita in un mix, sotto il cielo della mia città, spinto da una sensazione che vorresti ma non puoi spiegare. Oh, è D-A-N-O con il rap scomodo, è prova microfono, è un suono spesso, benzina sul fuoco, capo di me stesso, con le 06, con la faccia di chiunque c'è, che se vuoi venderci il falso, zio a canna, c'è, mi chiedi 10, io ti do 100, perché ancora sento che dentro al cuore mio brucia il fomento. Anima, stamina, guardo fuori quello che contamina qua, piaccio quel che vedo, per questo sempre con l'orecchio arpizzo quando esco e cresco, del resto la mia anima, stamina, guardo fuori quello che contamina qua, piaccio quel che vedo, per questo sto sempre con l'orecchio arpizzo quando esco e cresco, anima e ghiaccio. Corpo a corpo, cosa possiamo fare? Voglio essere sereno, voglio credere. nell'essere umano strano. Che razza di pensiero proprio oggi che mi sento così fuori mano. Cosa possiamo fare? Come mega, di come importato, S come sangue. Allora 11:47, bentornati su Radio Blackout, diamo qualche aggiornamento al volo per quanto riguarda lo sgombero iniziato alle prime ore di quest'oggi nella palazzina occupata di via Bardonecchia, l'ex CSEA ribattezzata Spazio Popolare Neruda. Al momento ci sono ancora delle compagne che resistono sul tetto, mentre fuori prosegue il presidio. In questo senso l'invito continua a essere quello di raggiungere i compagni che sono all'esterno. L'appuntamento è in via Marsili all'angolo con Concorso Peschiera, ma insomma non avrete sicuramente problemi a trovarlo, visto che il dispiego di forze dell'ordine è veramente impressionante. All'interno della palazzina le famiglie stanno affrontando i colloqui con gli assistenti sociali e con alcuni delegati del comune per capire quali sono le proposte che vengono messe in campo. Chiaramente la strategia anche di sentirli singolarmente va un po' nell'ottica di insomma depotenziare quella che invece è la forza collettiva di un'occupazione, e ovviamente anche un po' di mettere in difficoltà le famiglie che da questa mattina sono un po' ostaggio dentro la palazzina, circondate dalla polizia, quindi sicuramente non in una situazione di tranquillità in cui sono insomma appunto tranquille nel decidere rispetto alle varie opzioni. Quindi la presenza dei compagni all'esterno, anche di quella sui tetti, sta anche un po' a garanzia del fatto che non vengano proposte le solite soluzioni farsa, che poi soluzioni non solo, ma che servono solo un po' a salvarsi la faccia e poi a rimettere di fatto le famiglie nella condizione di prima. Quindi tra poco faremo ancora un collegamento dal tetto per sapere come stanno i compagni, anche perché insomma il sole comincia a picchiare alto sulla testa e quindi sicuramente la situazione sul tetto sta diventando anche faticosa. Se poi ci fossero aggiornamenti rispetto anche a quella che è la proposta che verrà fatta alle famiglie, quindi di conseguenza quello che si deciderà rispetto al proseguo della giornata, torneremo a metterci in contatto. Quindi vi lasciamo ancora un pezzo mentre prepariamo la diretta. Io non lo so se il tempo che spendo è perso, il fiato che spezzo. Forse per il successo, forse per parlare di ciò che mi è successo. Scrivere e buttare fuori è come vomitare sul cesso. Ogni sbronza di vita stronza mentre sprofonda sabbia nella clessidra. Resto e metto tutto in questo. Tu chiamami folle come il colle, capo di me stesso e me stresso. A volte mi sono perso, ma per ritrovare un uomo diverso. Questo mondo mette a tutto un prezzo, non è tempo perso, come quando butto un pezzo. E ho paura, sì, di rimanere senza nulla in mano. E mi ripeto che ho un piano, dai, la strada è dura, sì, non sarà tutto vano. La sola via che abbiamo, vai, vai, vai. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Vedremo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Vedremo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Io sono un cane che rincorre le macchine. Se le prendessi non saprei cosa farmene. E ne ho dovute versare di lacrime prima di capire che dovevo scriverne pagine, pagine, pagine ancora di questi testi che svuotano il cuore, ma il mondo li ignora. E queste parole mi bruciano in gola finché non le sbatto su carta. Proiezione di una vita nuova. Certe volte chi mi ama non comprende. Dice che il tempo che spendo nessuno me lo rende. Eppure se gli chiedo al posto mio cosa farebbe, la risposta è sempre quella. Non lo so come sempre, ma io continuo così perché mi serve scrivere di me. Mi fa capire meglio l'altra gente e mi fa comprendere. Mi fa capire che c'è un tempo per dare, un tempo per prendere. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Credo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Credo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Credo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Credo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. 16 barre. Prinskin, Benny, Barton, il suono della resistenza umana. Penombra lungo il corridoio, luce pio che esplode da lampade ad olio. Sul pavimento stride il cuoio dei loro anfibi bagnati. Degli incubi, gli scribi del demonio sono tornati. In mezzo ai morti sono sempre stato, vanno giù soltanto con un colpo al capo. Partendo dal prete, che schiavo di valori finti, a molta sete, controllato, ha negato istinti in fiumi di seghe. Come mai non vedo spazi aperti? Dove stai? Sogno ad occhi aperti. Wake in life, dall'ultima scialuppa per le nebulose, porto la mia vita più tre dita di semi di rose. Perché rimanga vivo il sogno di un giardino verde, oltre la barriera delle stelle, mentre il mondo si ribalta, per vivere rapineremo in banca con la banda come nei 70. Non se ne può più di tutto, ogni sogno per la mia generazione è già stato distrutto. Vi siete bevuti tutto, e quando ce ne andremo resterete su sta terra l'asciutto. Non se ne può più di tutto, ogni sogno per la mia generazione è già stato distrutto. Vi siete bevuti tutto, e quando ce ne andremo resterete su sta terra l'asciutto. E mentre stiamo festeggiando, il buio incombe in questa stanza grigia, cola lo sporco sopra i muri, mentre i nostri dialoghi si spengono pian piano. L'ultimo sorso di liquore in mezzo ai libri mi solleva a forza il cranio. Candele come colonne lungo il mio cammino verso il tempio, sembran dire guarda quel bambino che eri e prendi quel te stesso come esempio. Lasciati cullare all'infinito dal ciclo continuo del tempo. Fini a se stesse fuori guerre scavano l'inconscio, l'abisso in cui ci si ritrova non ha un fondo. Io mi ritrovo un mostro in parte a letto, sempre in piedi quando dormo. Non mi curo del mio aspetto e non ho sonno. Come sempre comodo nell'Ade, se il colore di queste contrade è finto, lo voglio estinto da rocce infuocate come carri sopra questo cielo a strati. E da copione questi insetti saranno schiacciati. Noi siamo parte di un disegno più complesso, il riflesso di un Dio non ci appartiene. E per restare insieme cantiamo in versi non ritorno, riflessi sopra il casco che portiamo del buio stellato intorno. Non se ne può più di tutto, ogni sogno per la mia generazione è già stato distrutto. Vi siete bevuti tutto, e quando ce ne andremo resterete su sta terra l'asciutto. Non se ne può più di tutto, ogni sogno per la mia generazione è già stato distrutto. Vi siete bevuti tutto, e quando ce ne andremo resterete su sta terra l'asciutto. Oh, sopra il ring a pugni di consapevolezza, Hurricane Mixtape. E allora 11.55, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli sui 105.250. E allora invece diciamo di andare in diretta, come dicevamo, con i compagni e le compagne, in particolare che sono sul tetto, per diciamo nell'opporsi allo sgombero di via Bardonecchia 151, rimandiamo al finale di puntata il collegamento, aspettando anche un po' per problemi tecnici e un po' aspettando anche quelle che sono effettivamente le proposte del comune. Appunto, sappiamo che sono cominciati i colloqui tra assistenti sociali e occupanti, sappiamo perfettamente che non vi è una soluzione valida che il comune possa proporre, perché diciamo altrimenti se l'impegno politico al riguardo esistesse non saremmo a Torino, non avremmo il triste primato dell'essere la capitale degli sfratti, non avremmo un'emergenza abitativa costante, quindi diciamo che sentiamo un po' con che faccia anche si presenteranno dagli occupanti di via Bardonecchia 151 questi tra assistenti sociali e istituzioni. Nel frattempo invece andiamo ad andare avanti, diciamo continuiamo l'appuntamento che ormai appunto sta diventando abituale con valderrama.it, un sito di storie di calcio e soprattutto calcio, diciamo narrato, calcio in storie e non solo giocato. Abbiamo passato nelle scorse puntate questi contributi audio che in maniera diciamo nostalgica ma con una costante ironia raccontano la parabola di a volte figure del calcio scomparse dietro un calcio che non si gioca più e a volte invece personaggi che tuttora riempiono le diciamo le cronache sportive. Allora in questo contributo dal nome Brucia, Talento Brucia, dopo appunto il pennellone e l'allenatore, andiamo a parlare un po' del delfino, della punta, della rosa, diciamo, del campione in crescita. Sì, questo è un audio recente tra le storie della Buonanotte di Valderrama, è stato caricato a maggio, quindi poco tempo fa, quindi ve lo proponiamo subito, buon ascolto. Dalla De Bologna, la preda per la notte viene in asse nel recesso, mi viene in estrema retaguardia del selezionato nazionale. Rincon Gaffè, Fleste, Fleste, Fleste, poi in cambio di pierna. A chi viene il pibe, Candelo, Candelo, Formico, già viene, già viene, già viene. E quel pibe Valderrama le va a pegare, per qua abajo. De Colombia, che signor golazo! Gol de Colombia, all'altura del minuto 40, in un tiro cruzado, maniobra individuale. ¡Vive Valderrama! Le storie della buonanotte di Valderrama. Qualcuno sostiene di averlo visto un paio di volte, negli ultimi anni, sbucare da un cespuglio, nelle radure fra bosco Chiesanuova e Travagliato. Ogni estate, verso agosto, un avvistamento. Altri affermano di aver sentito il rumore degli zoccoli in cortile, ma di non aver mai fatto in tempo a fotografarlo. Alcuni nottamboli nella foschia avrebbero notato una strana struttura di pietre, le cui crepe ricordano la sua faccia. Non ricordano se sia piuttosto un dolmen o un menhir, perché l'hanno studiato alle medie. Si dice che sia estinto da decenni, eppure ritorna ogni estate, rinasce il nuovo Franco Baresi. All'inizio, i nuovi baresi si fanno notare perché alzano il braccio. Con la mano sospesa, lo sguardo fisso, in fila, uno dopo l'altro, chiamano il fuorigioco, marciano, girano l'angolo e scompaiono. I Salvatore Fresi, i Gaetano De Rosa, sempre a testa alta, fieri, con un occhio al guardaline e uno a scrutare l'abisso della Serie D. Ma come? Si diceva fosse il nuovo Baresi! Un eco lontano. Il nome suona sempre più astratto, più un attributo, come milite ignoto, che un nome proprio. Che cosa ha fatto di Baresi un giocatore così inimitabile? Ne hanno scritto in tanti, giornalisti sportivi con riporto, intellettuali, filosofi, la scivolata di Baresi, l'anticipo di Baresi, il senso del tempo di Baresi. Da applausi, nel vero senso della parola, la prestazione di Baresi. La verità è che il gesto tecnico di questo giocatore aveva la stessa grandezza e piccolezza di un riflesso quotidiano, del salvataggio insperato, quando si crede di udire già il vaso impattare il terreno ed esplodere in mille pezzi e lo si carpisce in volo, il gesto al di là e al di qua dei nostri limiti tecnici e umani. Suona nelle nostre orecchie, assordate da sciabolate, missili, la felpata e struggente melodia di un pantalone del pigiama che scivola sul pavimento, in un corridoio per fermare la corsa di una pallina da tennis. Magari in una partitella negli infiniti e cupi pomeriggi padani, fra fratelli. Beppe e Franco. Lui è il fratello minore, peraltro. Forse è per quello che ha sviluppato uno stile unico, inimitabile, per non essere paragonato a Beppe. Forse non è il Baresi ad essere estinto, ma il suo ruolo, quello del libero. Forse l'Italia ha prodotto, fino a qualche decennio fa, per la sua storia, modi antropologicamente unici di essere uomo, anche nel calcio. Cos'è cambiato? Di chi è la colpa? Le scuole calcio sono troppo omologate, pensano prima alla preparazione fisica che al talento, le società non investono nei settori giovanili, gli stranieri ci rubano il lavoro, gli stadi sono vecchi e brutti e sporchi e pericolosi, certo, se facessimo come in Inghilterra. Beh, se lo stadio fosse un luogo da vivere tutta la settimana, con centri commerciali, cinema, musei e slot machine, vabbè, andiamo a mangiare una cosa? E mentre i saggi pisciano sul palazzo, si aggiustano la parrucca e vanno a bere un frizzantino, i giovani talenti continuano ad avvizzire, ad indossare maglie sempre più larghe e variopinti in serie sempre più lontane nell'alfabeto. Alcuni vanno all'estero, i saggi non approvano. In altri paesi i nostri talentini a volte riescono a diventare fenomeni. Lorenzo Amoruso diventa una bandiera dei Rangers. Pelé segna tutti i gol che ha sbagliato in Italia. Cosa sarebbe successo a Verratti se fosse finito alla Juventus o al Milan? Forse essere lo straniero ti emancipa dai paragoni col passato. Forse ti fornisce un'identità senza bisogno di troppi tatuaggi che la raccontano per te, e magari meglio qualche foto sui tabloid dei tanti padri autoproclamati, commentatori abbronzati o ex allenatori sonnecchianti. Meglio scappare dalle loro manone callose che conosci bene, pronte ad accarezzarti la nuca, leste a stringere il collo al primo cucchiaio sbagliato su rigore. Una settimana, il titolo è «Dategli il tempo di crescere», quella dopo l'epitaffio dice «E l'ultimo treno». Incapaci di essere se stessi, incapaci di essere la reincarnazione di giocatori del passato, i talentini si inventano esultanze sempre più bizzarre, come i tagli dei capelli e i colori delle scarpe, per essere unici. Così gli hanno insegnato i procuratori. Cosa fa il procuratore il resto dell'anno fra le due sessioni di mercato? Cosa procura? Procura una nuvola di fumo attorno al giocatore. Il ragazzo entra a fine partita con la squadra avversaria sulle ginocchia e segna un gol. Basta poco. Forse non era nemmeno un tiro. Lui voleva crossare. A tutto il resto ci pensa il procuratore. Giornalisti, inventatevi un soprannome. Quest'anno vanno forte gli insetti, chiamatelo mantide o coleottero. C'è spazio per tutti sulla macchina nuova, anche se non hai la patente. Su Oggi con la nonna, su Novella con la fidanzata, su Cronaca Vera col fucile in mano. Poi il giovane si sposa, di solito. Ho messo la testa a posto, è il mio gol più bello. Inizia a bere. Ingrassa, le caviglie diventano fragili come quelle di un tacchino fatto crescere troppo in fretta. Va a qualche festa sbagliata, forse non erano esattamente delle donne. Il procuratore gli toglie le enormi cuffie, gli insegna la pubalgia o qualche altro infortunio inventato. Cambia squadra, il procuratore incassa. Cambia scarpe, il procuratore incassa. Mostra gli addominali, non importa in che ruolo giocherai, né se sarai titolare, l'importante è che parlino di te. La casa nuova è grande e vuota. Chiama qualche amico. L'amico di solito ha i capelli grassi e un bomber con il collo di pelliccia. Arriva con una valigetta, non ha soldi, ma è l'amico degli amici giusti. Il ragazzo vuole solo qualcuno da sfidare ai videogiochi o col quale accendere le micette. L'amico non è interessato. Cosa c'è nella valigetta? Banconote, cambiali, schede di cellulari, polverine, flebo, l'affare che ti capita una volta nella vita. Qualche volta la foto del ragazzo addormentato ad una festa. Cosa sogna mentre dorme a quella festa? Sogna di un campo le cui linee corrono parallele per miglia e miglia. Cammina, cammina, il campo diventa foresta. Là, strane bellissime creature zampettano libere di radura in radura. Ci sono tutti. Morfeo suona il piffero. Banchelli e Benito Carbone si rotolano nell'erba. Santon conta fino a 100. Macheda si nasconde dietro una roccia. Ventola inciampa su una radice. Su un ramo, più in alto di tutti, c'è Mario, solo e pensieroso. Forse si annoia, forse è triste. Arriva il crepuscolo, inizia a fare freddo. Gli altri non ci sono più. Ora, sotto di lui, ci sono solo dei bracconieri. Sono tutti in cerchio. Scendi! Accendiamo un fuoco. Avete ascoltato Le storie della buonanotte di Valderrama.it. Allora, queste erano le storie della buonanotte di Valderrama che vi stiamo proponendo da alcune settimane. Ovviamente qui è presto per darvi la buonanotte, ma siccome avevamo difficoltà a contattare i compagni dell'occupazione, abbiamo anticipato quello che solitamente è il nostro appuntamento in chiusura. Nel frattempo ci è arrivato qualche aggiornamento da via Bardonecchia. Sappiamo che le compagne sono ancora sul tetto e che addirittura la polizia sta impedendo che i compagni solidali che si trovano all'esterno gli facciano arrivare dell'acqua. Ricordo che appunto sono dalle 6 di questa mattina sul tetto, le temperature le state sperimentando tutti, niente affatto piacevoli, quindi ovviamente far arrivare un po' d'acqua era come minimo un gesto sicuramente apprezzato e necessario, ma appunto pare che la polizia stia impedendo anche questo nella sua consueta infamia. Però adesso dovremmo aver recuperato qualche contatto, perché quello che avevamo dal tetto risulta irraggiungibile, però probabilmente il telefono è scarico, insomma, dopo le tante chiamate da questa mattina che hanno dato appunto testimonianze preziose su varie emittenti indipendenti, non solo Radio Blackout ma anche altre. Comunque dovremmo aver recuperato un altro contatto, quindi tra pochissimo ci metteremo in collegamento per farci dare appunto un aggiornamento sulla situazione da chi è sul posto, quindi rimanete sintonizzati, tra pochissimo torniamo in diretta. Seduta ad un tavolo, stringendo penne di sangue, sto scrivendo un nuovo capitolo del libro in cui titolo ricorderà la mia vita, chiamando il mio nome. Sarà lo specchio di ogni scelta che ho fatto e di ogni mia decisione. Pagine bianche si apriranno e solo io potrò leggerle per correggere ciò che da solo continua a sorreggere. Il peso di una vita che mi ha cresciuto, da cui i miei figli apprenderanno ciò che ho visto e tutto ciò che ho vissuto. Minuto dopo minuto racconterà di chi ha nuotato in un mare di sputo e ne è uscito pulito. Sarà un libro proibito che narra di chi inseguiva l'eccesso, un solitario in cui ho il banco e il giocatore nel sesso. Come il bastone un rabdomante, memoria da qualche parte, in terre morte la sorgente, ho la mente solcata di impronte, vorrei calcarle nuovamente ma sono svanite nel presente. Guarda attraverso me stesso, trapassato da una ferita, la vita fuma una siga infinita, traccia futuri a matita, sconfiggi un uomo per essere un uomo, il senso della sfida oppure avrei perso, missione fallita, un occhio e mezzo più un terzo e rivedo ciò che ho vissuto, battuto ma non sto muto e mi alzerò ogni volta che sarò caduto. Questo perché è stato sconfitto, anch'io di fatto ora scappo da flashback contundenti che mi hanno trafitto. Accusato di paure immaginarie, testimone marginale, ho visto cose che voi umani non potreste immaginare. Sorseggio calici pieni di tristezza e piango occhi come lacrime di incredibile compattezza. Ho già vissuto il passato, da voi chiamato futuro, tra qualche secolo ho visto il cielo spalancarsi e tracciarsi nell'oscuro. Un ponte d'ombre sospeso come il fiato, pochi sono al sicuro, perché avrà il diritto di attraversarlo solo chi ha un cuore puro. Ma chi gli infami otterranno di essere salvi, recitando a me giunte salmi per nascondere il destino marchiato sui palmi, non potendolo più attraversare. Il bene dovrà diventare male, come l'acqua di un fiume per continuare deve diventare mare. A volte mi sento come se la mia fantasia fosse in lutto. Ogni ideale distrutto ed il brutto è che negli occhi ho lo sguardo di chi a 20 anni ha visto tutto, ma perdendo una lacrima butto a terra questo senso corrotto. Una volta un uomo mi ha chiesto da dove vengo, nato in mezzo alla merda ma un idiota, ha le radici nel fango e nel fango. I miei ricordi verranno trovati, conservati per chi percorre sentieri sbagliati. Vorrei ricordare ciò che ormai ho dimenticato, vorrei dimenticare ciò che da quel giorno non ho più scordato, ma ora che vivo il passato

Ma sì, allora vabbè, sono sotto in cortile, poi ci sono ancora i Digos qua sopra sul tetto, abbiamo i cellerini qua nel una specie di sottotetto da cui prima un occupante ci aveva passato l'acqua, adesso ci sono messi lì proprio a presidiare in maniera tale da non farcela passare. E appunto è venuto su l'avvocato, gli abbiamo chiesto di farcela portare, ma insomma non... A quanto pare le nostre richieste sembrano essere un po' esagerate, chiedere un po' d'acqua. Quindi, diciamo, finora non ci sono stati tentativi di allontanarvi da lì, però stanno cercando un po' di sfiancare la resistenza sul tetto appunto con questi mezzi. Sì, esatto, stanno cercando un po' di sfiancarci in tutti i modi, ma insomma, noi stiamo resistendo. Comunque appunto il morale è alto qua. Ok, quindi non vi hanno allontanato per adesso, stanno continuando i colloqui con le famiglie? Sì, stanno continuando i colloqui con le famiglie, pare ce ne sia ancora 5 o 6, le soluzioni appunto sono sempre più o meno le solite, quindi le robe insomma di house sharing, insomma sempre quelle solite soluzioni un po' mezze, in cui appunto mettono le famiglie una volta sfrattate, 2 o 3 mesi magari di soluzione, poi le sbattono di nuovo in mezzo alla strada. Cerchiamo di resistere ancora un po' in maniera tale da riuscire a capire un attimo quante famiglie magari riusciranno anche ad opporsi e dire di no anche a queste soluzioni, pseudo soluzioni. Eh sì, dicevamo anche prima che insomma la strategia di prenderle singolarmente dopo appunto tante ore di resistenza di una mattinata sicuramente faticosa andava anche un po' appunto nell'ottica di insomma di metterle in difficoltà, di provare a tenerle separate. Sicuramente uno dei punti fondamentali che veniva portato questa mattina dal presidio era assolutamente che i nuclei familiari rimanessero uniti e non, come spesso viene fatto, disgregati tra soluzioni diverse, che chiaramente non può essere in nessun modo una soluzione accettabile anche solo temporaneamente. Sì, esatto, poi in una situazione come questa appunto cioè, sicuramente è straziante per loro, presi appunto individualmente, cercare di rispondere anche con lucidità alle proposte che vengono fatte. Insomma, sicuramente le famiglie con bambini avranno magari delle soluzioni più o meno migliori rispetto agli altri. Inizialmente addirittura agli altri non si proponeva proprio alcuna soluzione. Adesso almeno si riesce a garantirgli qualche mese in queste appunto soluzioni un po' di canone calmierato, che poi vabbè in realtà è un affitto bello e pieno, infatti per questo motivo che noi stiamo cercando di rimanere qua il più possibile. Eh certo, intanto vediamo che sui social network sono spuntate le foto appunto della polizia che impedisce a un carrello carico di acqua e con 2 bimbe dell'occupazione a bordo di passare. Insomma, sappiamo che i bambini dell'occupazione sono molto scatenati e caldi come il fuoco, però insomma addirittura da rappresentare un pericolo per le centinaia di cellerini che stanno presidiando l'occupazione forse è un po' eccessivo, ma insomma adesso ci premureremo di far girare anche questa ennesima prova appunto di indegna della polizia. Sì, non avevamo dubbi, tanto che fossero comunque sempre gentili anche in situazioni in cui siamo da 6 ore su un tetto e stiamo morendo di caldo. Comunque i bambini invece viva, perché ci hanno tenuto anche loro sul morale, sono da sotto, hanno continuato a gridarci, a farci danze, insomma anche loro sicuramente hanno contribuito a farci resistere, insomma. Ebbene, meno male che nonostante il risveglio non poco semplice, hanno tenuto alto il morale con cui li abbiamo conosciuti in questi giorni. Quindi speriamo che vi contagi e vi mandiamo... Ma Sara, solo una cosa, dal quartiere un po' la risposta com'è? Gente chiede cosa accade, chiedono cosa accade, sono venuti a vedere? Ma sì, da stamattina insomma sono passate diverse persone, poi ci sono le fermate dell'autobus proprio qua in via Bardonecchia, per cui la gente si fermava, qualcuno insomma ci ha dato saluti solidali. Invece ci sono qua gli ospiti del dormitorio di fronte, che da stamattina appunto anche loro hanno insomma ci hanno dato un po' di solidarietà. Adesso in questo momento sono tutti rientrati, però stamattina anche loro insomma hanno contribuito un po', diciamo, alla nostra resistenza in qualche modo. Adesso in questo momento non vedo tanta gente passare, però anche perché sono in un punto, sono rivolta più verso l'interno dell'occupazione, così pieno di gente, sicuramente anche dalle case che salutano e cercano di, sì, insomma. Adesso è anche mezzogiorno e mezza, quindi chiaramente purtroppo impietoso il caldo. Sì, lo sentiamo anche noi. Esatto. Cioè, lo sappiamo che mezzogiorno e mezza i cellulari sono quasi tutti scarichi, però lo immaginiamo. Bene, dato allora... il caldo e la fame. Bene, grazie mille per aver trovato appunto l'energia per continuare a diffondere quello che accade, per continuare ad aggiornare tutti e tutte coloro che sono solidali e preoccupati anche in questo momento per quello che accade al Neruda. Ovviamente i microfoni di Radio Blackout rimangono aperti, con quel poco di carica al cellulare che ancora si può mantenere, sicuramente non esitate a dare aggiornamenti anche per chiunque magari da sotto, nei dintorni, senta qualcosa che ci può dire. Ricordiamo ancora 011 24 95 669 per chiamarci, 346 66 73 263 per farci diciamo, per contattarci via SMS. Allora, va bene. Grazie mille. Grazie a te, Eddie. Un abbraccio, ci aggiorniamo. Va bene, lo facciamo, ci aggiorniamo, saluti a tutti. Va bene, un saluto a voi, ciao. Allora, queste le voci quindi dallo spazio popolare Neruda, come sentivate le compagne sono ancora sul tetto, quindi insomma la situazione è abbastanza in stallo per ora e si attende di vedere quello che sarà l'esito dei colloqui con le famiglie. Tra l'altro l'avvocato che da questa mattina è riuscito ad arrivare all'occupazione per appunto seguire le famiglie in questa trattativa riferiva che addirittura anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Torino non solo non era stata informata dello sgombero di questa mattina, pare che i consiglieri comunali stessi siano stati avvertiti per SMS questa mattina, quindi ancora una volta questo dimostra come la polizia, la questura, insomma, venga mandata avanti a risolvere i problemi prima di chi dovrebbe occuparsene invece in maniera differente. Ma addirittura appunto dalle parole della stessa assessora alle politiche sociali pare che il comune non avesse di fatto nessuna soluzione da offrire, che quindi fosse abbastanza in difficoltà di fronte a questo sgombero, e l'unica soluzione che era uscita ieri sui giornali appunto con tempismo direi perfetto rispetto allo sgombero di questa mattina era quello di riadattare l'ex villaggio operaio di Corso Grosseto, quindi di riadattare dei container per metterci le famiglie, oltre al fatto che ovviamente sarebbe una soluzione per un numero veramente risibile rispetto a quella che è l'emergenza abitativa a Torino, ma mi sembra anche poco dignitoso insomma proporre dei container per delle famiglie che hanno la prospettiva di finire per strada. Quindi questa è un po' la situazione, sono le 12:30 in questo momento, per cui vi lasciamo ancora un pezzo e poi insomma andiamo a chiudere rimandando gli aggiornamenti alle prossime trasmissioni. Attacking them niggas we go against. The money was his. One nasty unit of murderers. All type of goons are watching. Then 4 minutes later they burglars. I heard from the grapevine how I made it. Elevate the name of this gift. Got a rain and his game went up. And now he's stronger than ever. Night jackets and classics go against it in this instant. Vendettas, he run things. Gun down pins. Check the joint, the kid flying in. Crib in Africa with two lions. Sound like a prince of a jewel thief. So smack the millions. Came back, wrapped it up. Too sweet. The game was missing something unique. I put too much in the fall back on. I'd rather just sleep. Yeah. We designing, rhyming with diamonds. Yeah. Ice water, it was all in the timing. Yeah. He gave y'all niggas bricks on consignment. Yeah. To the death and he billboard climbing. Yeah. We designing, rhyming with diamonds. Yeah. Ice water, it was all in the timing. Yeah. He gave y'all niggas bricks on consignment. Yeah. To the death and he billboard climbing. Yo, Dirk, harder, bomb harder, over nearly everybody. going and you see about 100 Puerto Rican niggas shooting, nigga, get down, lay down. We don't play around. I don't know what you heard, but we don't play around. Cause good coke, you look broke, what the fuck happened? How you leave a dope game to pursue rapping? Already knowing that your shit was trash. Breathing hard on the mic when you click his ass. All we trying to do is bring dignity to rap. Man, you kidding me? I'm literally the epitome of that. We much better than y'all. Terror, error, the squad. My niggas said it when we get in the yard. Whether one see a car stop, kick a pump, got straight punch in your lung, man, you niggas gon' die. We designing, rhyming with diamonds. Ice water, it was all in the timing. He gave y'all niggas bricks on consignment. To the death, and he billboard climbing. We designing, rhyming with diamonds. Ice water, it was all in the timing. He gave y'all niggas bricks on consignment. To the death, and he billboard climbing. Shoot him in his mouth. Fuck him, he act up. Get the gasoline. Tell Jerry to pull the act up. Bring him to Ray Warehouse. Hang him from hooks and skin his ass. As lame as he look, he ready to cook. And he pleading for mercy. Bleeding from his dome and he thirsty. The first week we made him eat shit. Video chases whiz and I fucked his bitch. Made him watch me on the couch having fun with his kids. So now your word hurts more. Is it me showing love to your fam? Or you in a box laid under the floor? Or keep you alive, low tossing your balls. My murder chainsaw, your blood's on my Scarface wall. Not even Ajax can clean that jack. We need that maintenance man. Shit that kill that greasy blood on contact. Finish you all cause I'm pressed for time. Your man and them will be next to die. Motherfucker. Allora 12:33 ci avviamo verso la chiusura anche per questa settimana con questa puntata di Parole ai Ribelli, ma non prima di avervi ricordato gli appuntamenti della settimana. E quindi partiamo proprio da oggi, martedì 7 luglio, questa sera confermato l'appuntamento con la cena all'asilo occupato, sarà l'ultima prima della pausa estiva, poi si riprenderà a settembre e quindi appuntamento dalle 18 aperitivo con le male teste, dalle 20 Tropical Pirate Party con grigliata, canti anarchici, jazz e concerto live dei DAO, dei jazz da Torino. Per tutta la sera ci sarà DJ set Cumbiero, quindi un appuntamento decisamente consono alle temperature tropicali che ci affliggono ormai da qualche giorno, quindi non mancate. E allora mercoledì 8 andiamo invece al Mezca Squat, Parco della Certosa con Legno, dalle 19:30, cena bella vita, porta ciò che vorresti da bere o da mangiare. Poi abbiamo, ricordiamo, anche l'appuntamento di cui abbiamo fatto un approfondimento in apertura di puntata, Crack Unito, presso l'Auletta C1 al Campus Luigi Einaudi, dalle 10 di mattina, colazione estiva, performance, diciamo, e allenamento di Tai Chi. E andando avanti lungo tutta la giornata ci sarà anche appunto dibattiti su Buona Università e su diciamo, spazi virtuali, spazi concreti. E arriviamo invece a giovedì 9 per quanto riguarda dal pomeriggio la carovana per il Rojava. Organizza una giornata informativa ai Giardini Reali dalle 17 alle 24, alle 6 ci sarà la presentazione del libro Kobane Dentro di Ivan Grozny, a seguire apericene dalle 21 racconti della carovana e aggiornamenti dalla lotta in Rojava. Per tutta la serata ci saranno bar, video e banchetti distro con materiale informativo. E sempre giovedì, appuntamento consueto con la Piola di Blackout qui nel cortile di Via Cecchi 21 Barra, panini, vino e birrette, dalle ore 20 incontro informativo sull'uso terapeutico della marijuana per un utilizzo libero e consapevole dei farmaci a base di cannabis. A seguire ci sarà un workshop. E allora arriviamo a venerdì 10, ci tuffiamo nel weekend al Gabrio. Al CSA Gabrio in via Miglio, ore 21, ai Giardini in via Braccini, via Non saprei veramente che via, eh? Scrittura incomprensibile. Proiezione del documentario Chi salva chi? Dalla Grecia alla Spagna al Portogallo. Crisi politica di austerity. Proiezione e a seguire dibattito. Beh, sicuramente quanto mai attuale come appuntamento. Quindi ricordiamo venerdì 10 ai Giardini in via Braccini. E sempre venerdì prosegue la programmazione nell'area pedonale di Via Balbo. Questa settimana torna l'appuntamento con il Cineforum, che sarà dedicato alla proiezione di Qui, il documentario di Gaglianone sulla Valle di Susa e la lotta contro il TAV, che è stato, anche se per poco, nelle sale questo inverno. Quindi per i tanti che probabilmente se lo sono perso, l'occasione è per vederlo all'aperto questo venerdì sera, appunto nell'area pedonale di Via Balbo. Come sempre la proiezione inizierà verso le 9 e mezza, insomma non appena le tenebre lo consentiranno, ma già da prima troverete bar e aperitivo, e soprattutto sarà presente anche il regista Daniele Gaglianone, che quindi sarà poi anche disponibile per domande, discussioni e approfondimenti. Quindi segnatevi l'appuntamento. E credo che chiudiamo qua. L'agenda non ci dà altri spunti per darvi consigli su come impiegare le vostre serate di qui al fine settimana, ma sicuramente arriveranno nuove notizie nei prossimi giorni. Quindi direi che noi vi salutiamo, sono le 12:37, quindi ci prepariamo per lasciare spazio al GR di Blackout. A seguire non ci sarà Cattivi Pensieri, ma dovrebbe esserci Lo Spesso a sostituire appunto la puntata mancante. Quindi rimanete sintonizzati, un augurio di buona giornata e ci risentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti e tutte, rimanete in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout.